età diversa, e poi vi diremo anche di che cosa si tratta, e in due puntate, perché questa è la seconda puntata in realtà che dedichiamo a Oriana Fallaci, in quanto la settimana scorsa all'interno del nostro gruppo di lettura, che è un'attività che portiamo avanti da tutto un anno, abbiamo dedicato sempre ad Oriana Fallaci, però anche insieme ad un'altra grande scrittrice che è Dacia Maraini, una serata, un incontro, e in questo caso ci hanno accompagnato la settimana scorsa, il 21 di giugno, Franca Heller, che vedo qui stasera, e la professoressa Danaiger, che è stata docente di sociologia della letteratura a Trento, e Franca Heller invece collega bibliotecaria nonché scrittrice, editor, insomma ha un'attività e una competenza nell'ambito dei libri e della narrativa non da poco. Questa sera sarà con un'altra donna che ringrazio tantissimo, è Rosanna Oliveri, la conosciamo perché già in altre occasioni ha accompagnato la biblioteca in alcune serate e ci ha aiutato a conoscere degli scrittori e delle scrittrici. Rosanna Oliveri è stata ed è giornalista ancora per una testata locale, ma è anche insegnante e docente in una scuola superiore dell'Alto Adige. Ci ha dedicato questo tempo prezioso per aiutarci a conoscere, a scoprire alcuni aspetti di Oriana Fallaci come scrittrice, ricordandovi anche che la biblioteca ha dei libri da mettere a disposizione sempre di questa autrice, e lo faremo in una modalità diversa. Quindi avremo da una parte il contributo di Rosanna Oliveri e dall'altra la conosceremo Oriana Fallaci anche attraverso dei brevi spezzoni di un film in particolare che riprende l'intervista fatta nel 1981 da Oriana Fallaci a Lech Walesa, interpretata in questo film dalla grande attrice Maria Rosaria Omaggio, con cui abbiamo avuto dei contatti in questi giorni e che è stata l'ispiratrice anche di questa scelta, perché è un'attrice di grande spessore che ha saputo interpretare veramente magistralmente il personaggio di Oriana Fallaci, tant'è che in alcuni casi qualcuno ha pensato si trattasse di filmati di repertorio, quando in realtà invece tanto era vera e realistica la sua interpretazione. E poi ci saranno altre due sorprese che vi vorremmo proiettare e che daranno il ritmo, ecco, di questa serata con Rosanna Oliveri. Mi fermo qui e vi ringrazio per la vostra presenza, ricordandovi due appuntamenti. Il 6 di luglio avremo catalogo aperto qui con la presentazione della vincitrice di quest'anno, e il 10 luglio invece la presentazione del libro Città Tropicale di Luca Bernardi. E poi insomma saremo un po' in vacanza o comunque aperti sempre, ma non con le iniziative serali. Rosanna, grazie, a voi una buona serata e un arrivederci a presto. Buona serata. Bene, buonasera. Intanto ringrazio la biblioteca, la direttrice in particolare, per questa occasione di parlare di questa grande donna che era Oriana Fallaci. Devo dire che appena la direttrice Trevisan mi ha proposto questa serata, il mio primo pensiero è stato: oddio, ma lei ha fatto così tanto, è stata una giornalista, un'intellettuale così a 360 gradi che non saprei da dove partire. Ecco, poi abbiamo, pensandoci bene, anche grazie agli spunti arrivati dalla direttrice, dall'interprete di Oriana Fallaci, abbiamo pensato a questo taglio, abbiamo pensato di alternare appunto questi video e poi vedere com'era lei nella vita professionale. Cioè, ci sarebbe molto di più da dire, questo lo dico già all'inizio, però cioè, a dire tutto dovremmo stare qua, non so, tutta la notte, però anche no, cioè, vediamo alcune cose, alleggeriamo un po'. No, ecco, io pensavo di vedere con voi alcuni nuclei della personalità, della professionalità di Oriana Fallaci e discuterne anche insieme, ecco, e vedere lei com'era nella sua vita professionale prima e anche come donna. Ecco, inizierei con un video che ci mostra com'era lei nella sua vita professionale. Fabrizio. Sono di nuovo i protettori? Probabile. E possono fermarci? Ma sarebbe un assurdo, la più grande giornalista dell'Ovest. Badano piuttosto alla nostra sicurezza. Mi sembra evidente che questa intervista può essere molto scomoda per loro. Ragazzi, mettete a posto tutti i giocattoli e lavatevi le mani. Slovek, porta questo di là. Poi vengo a controllare. Leszek, la camicia bianca è stirata. Non la voglio. Mi avete fregato con questa intervista. Bogdan, prendi questa. Almeno mettiti la cravatta. No, no, non mi farò strozzare per quella befana arrogante. Abita qui il capo di un sindacato che raggruppa 10 milioni di persone. Ah, si sono trasferiti da poco, prima gli è stato assegnato dalle autorità. Ma lui ha accettato un appartamento che gli è stato assegnato dalle autorità contro le quali sta lottando. Signora, ha 6 figli e non ha soldi. E poi Solidarnosc non è stata contraria, al primo incontro l'ha detto. Sicuro di aver tradotto bene, guarda che io registro. Che uomo è? È un uomo paradossale. Capace di paradossali sorprese. Sono Oriana Fallaci. È una domenica pomeriggio in una Danzica fredda, intrisa di neve ed angoscia. Un momento. Zanim zaczniemy, trzeba pewne sprawy uzgodnić. Dobbiamo chiarire un paio di cose. Ja jestem prostym robotnikiem, ale nie mam kompleksów. Ani wobec generałów, ani premierów, ani wobec pani. A jeśli chodzi o panią, pierwsze pytanie stawiam ja. Czy ja na tym wywiadzie zyskam, czy stracę? Questa intervista, io ci guadagno o ci perdo? Senta, Wałęsa, se a far questa lei ci guadagna o ci perde, io non lo so, in quanto dipende da ciò che mi dirà. E le domande le faccio io. Incominciamo. Sette mesi fa nessuno conosceva il suo nome fuori della Polonia e ben pochi nel suo paese. Oggi lei è uno degli uomini più famosi del mondo. Quando viene in Italia viene ricevuto come un capo di Stato, una diva. Stop. Perché? Dlatego, że ma pani styl autorytatywny, typowy, dyktatorski. Un dittatore lei è. A ponieważ ja też mam taki styl, powstaje problem. Umówmy się, od tej pory ja będę uprzejmy dla pani, pani będzie uprzejma dla mnie. Jeżeli nie, to poszarpiemy się na kawałki. Ja już raz z panią rozmawiałem, po co pani przyszła drugi raz? Perché voglio essere sicura di aver capito bene. Chcę się upewnić, że dobrze zrozumiałam. Brezhnev dice chiaramente che in Polonia i nemici del socialismo svolgono l'attività controrivoluzionaria nei confronti dei loro amici e alleati. E che l'Unione Sovietica non abbandonerà mai la Polonia socialista. Ile razy ludzie podnoszą głosy, żeby straszyć? Non le fa paura il pensiero della responsabilità che si è presa dinanzi al suo paese e alla storia? Non ha paura di non essere la persona giusta? Ponieważ jestem człowiekiem wiary, ponieważ wiem, że w tym momencie potrzeba kogoś takiego jak ja. Po co pani mnie zmusza do mówienia tego wszystkiego? Już mnie głowa boli. Boże, mi wiem male la testa. Ce l'ho anch'io, è venuto anche a me. Mnie też boli. Naród chciałby wybuchnąć jak bomba. Ja wiem, jak go powstrzymać. Sztuką jest iść przeciw tłumowi, bez niecierpliwości. Lech, l'ultima domanda. Ha detto che se questo governo fallisse, Solidarność dovrebbe sostituirlo e lei prendere in mano la situazione. Tak. Non scherzava dunque. E crede ne sarebbe capace. No sì, perché ci credo. E crede che il partito comunista di un regime comunista, sarebbe disposto a una capitolazione simile. A jakie byłoby inne wyjście, jakby rząd Jaruzelskiego upadł? Dziś mówię tak, jutro się zobaczy. Ci sarebbe altra soluzione. Vediamo. E quali sarebbero le conseguenze con i vostri fratelli, i vostri alleati, con i sovietici, insomma? No, to jest właśnie problem, no. Z tego powodu mówię o możliwości, której nie wierzę, o możliwości fantastyczne. Grazie, Lech. Dziękuję. Dziękuję pani z całego serca. Miło było spędzić z panią te godziny. Nawet jeśli przyczyniła się pani co najmniej dwa razy do mojego bólu głowy. Buona fortuna, Lech. Ecco, è finito. Sì. Allora, in questo video si vede tanto della passione e della professionalità che metteva Oriana Fallaci nel suo lavoro, no? Cioè, è anche la capacità di leggere il presente quasi in modo profetico, no? Lei gli chiede, ma cosa farebbe se lei prendesse il governo di questo stato, della Polonia? E lui dice, è una realtà immaginaria, insomma, non ci credeva neanche lui. Questa intervista è stata fatta all'inizio degli anni Ottanta, poi nel 90 lui è diventato presidente della Polonia, insomma, quindi la realtà lei l'aveva vista prima, no? E non è stata l'unica volta. Per dire, lei ha intervistato anche Sandro Pertini nel 73 dicendogli, ma cosa farebbe lei se fosse presidente della Repubblica? E lui gli rispose, ma questa è una eventualità del tutto impossibile, e dopo è diventato presidente, no? Lo sappiamo. Quindi, cioè, lei certe cose le vedeva prima, no? Cioè, si dice infatti che lei fosse in qualche modo profetica, ma questa sua capacità profetica le veniva dal saper leggere bene il momento, no? E in modo obiettivo, non si faceva inquadrare, non si faceva comprare da nessuno, era molto coraggiosa, anche il modo che ha di porre le domande, adesso lo vediamo. Teniamo presente che questo è un personaggio, il leader di Solidarnosc, che all'epoca era molto ben visto dall'opinione pubblica anche occidentale, no? Perché comunque un uomo che è venuto dal basso, era un elettricista che fa il primo sindacato in Polonia, poi in un paese di aria dell'Unione Sovietica, cioè non faceva parte dell'Unione Sovietica, ma faceva parte di quell'area di influenza, uno che cerca di sovvertire la parte occidentale, ha visto bene, insomma, ecco, questo siamo anche nell'epoca della Guerra Fredda, no? E lei che ha il coraggio di dire, no, ma lui prende la casa popolare dal governo che vuole ostentare, cioè lei vedeva queste cose, magari un'altra non l'avrebbe fatto notare, no? Cioè, per esaltare il personaggio, invece lei inquadrava le cose così com'erano, e questo suo coraggio, questa sua obiettività era una sua caratteristica fin dall'inizio della sua carriera, no? Lei inizia a fare la giornalista a soli 16 anni, aiutata dallo zio, insomma, e scrive per un giornale che era l'Italia Centrale, però questa avventura con questo giornale dura poco, no? Perché dopo quasi un anno così, il direttore le chiede di scrivere un articolo contro un politico, Palmiro Togliatti. E lei dice, no, ma a me questo politico non piaceva, però io scrivere cose che non sono vere, anche se questo articolo non l'avrei firmato, non voglio, perché io scrivo qualcosa contro di lui se c'è qualcosa da dire, ma non così perché me lo chiedono, cioè io voglio scrivere quello che voglio. Infatti lei diceva, io voglio essere libera, lei, la sua qualità era questa anche, no? La sua libertà di essere sempre se stessa, no? Di non rispondere a padroni, di non farsi inquadrare. E questo suo rifiuto fu anche un po' una fortuna, perché dopo essere stata licenziata per questo, iniziò a lavorare con l'Europeo dopo un poco, insomma. Quindi da una parte fu quasi un'occasione dovuta anche alla sua schiettezza. All'inizio si occupò di moda, e forse anche perché era una donna, cioè, perché cioè era un po' un'epoca che le donne erano viste un po' come non proprio capaci di occuparsi della politica, della società, così, quindi la mandano a occuparsi dei VIP, E lei scrive subito il suo primo libro, l'intervista agli antipatici, facendo vedere i lati negativi di questi VIP. Quindi c'è, cioè, già lì, insomma, agli albori, inizia questo suo modo di porsi in modo schietto e sincero. Ecco, poi ha scritto tanto, però ecco, io volevo parlarvi adesso, legata a questa bella intervista che abbiamo visto, un'altra intervista molto celebre, che è quella che ha fatto nel 78 Khomeini, una delle più famose, cioè, lei intanto racconta nel libro l'intervista con il potere, racconta una serie di interviste, questa è la prima, anche forse perché è la più famosa, o non so, cioè, quella di cui spesso si parla, per il coraggio che ebbe. E lei racconta innanzitutto una serie di episodi che l'hanno portata lì. Intanto hanno consentito a fare questa intervista perché lei era famosa in Iran perché aveva intervistato lo Shah. E quindi lo Shah, che era un uomo potente, no, immaginate, lei l'aveva intervistato mettendo in luce anche le qualità negative, no? Quindi loro pensavano che questa giornalista fosse dalla parte loro, no? Senza pensare che lei invece era obiettiva. Quindi lei richiede il pass per andare in Iran e all'inizio, come racconta lei, già all'aeroporto glielo negano perché aveva lo smalto alle unghie, cioè, quindi era proibito, va a togliersi lo smalto, si ripropone, poi arriva lì. Poi lei si era portata la veste islamica con lo chador, naturalmente, perché lei dice: non sono così stupida, sapevo che mi sarebbe servita. Però all'inizio ci prova almeno ad andare come voleva lei. Però insomma incontra una serie di difficoltà, poi lei racconta anche che cercava un parrucchiere, ma era proibito agli uomini, era proibito lavare i capelli alle donne con la rivoluzione di Khomeini, e le donne non potevano fare la parrucchiera, quindi, cioè, lei a un certo punto era un po' in crisi e non sapeva come fare. Insomma, racconta questi aneddoti, sono interessanti per vedere anche un po' la condizione delle donne, anche lì lei era molto attenta a questo. E poi a un certo punto, quando riceve l'ok per fare l'intervista a Khomeini, le dicono che però deve mettere la veste islamica. E non basta solo lo chador, ma deve proprio vestirsi completamente. Allora lei deve, per mettersi questo vestito, deve togliersi i jeans. E qui inizia una serie di avventure e cerca naturalmente un bagno. All'inizio propone al suo interprete: ma lo faccio in macchina. Questo dice: no, è impossibile, in macchina se ti beccano c'è la fucilazione addirittura. Cioè, perché non siamo abituati a un certo grado di libertà. Lì, subito dopo la rivoluzione, non era proprio così. Allora dice: beh, allora vado in... cosa avreste fatto voi, no? Andiamo in un bagno pubblico, no? Qua iniziano i problemi, perché in tutti gli alberghi è proibito alle donne entrare senza il marito. Lei non aveva il marito, quindi non sa come fare, gira da tutte le parti, alla fine trova un bagno dove si cambia, si apparta in questo bagno, ma insieme all'interprete che stava fuori dal bagno, però insomma. E però viene beccata da un mullah che si accorge di questa cosa e la vuole denunciare, e come possibilità gli propone un matrimonio riparatore, quindi lei, poverina, si deve sposare, però c'è una possibilità, un matrimonio a termine. E lei chiede: ma fino a quant'è il termine? Fino a che lo vuole il marito. Ah, beh, allora, va bene. Insomma, però quello dice: non ti preoccupare, io ho già una moglie, però insomma facciamo questo matrimonio, insomma deve fare il matrimonio. Però era talmente desideroso di fare questa intervista che accetta anche questo e va finalmente da Khomeini, fa questa lunga intervista e lei gli dice delle cose che per lui non sono facili da accettare, no? È famoso lo scambio di battute dove lei dice: ma perché lei costringe le donne a mettere questo vestito con cui non si può nuotare, non si può giocare, non si può fare sport? È un vestito che dà una serie di impedimenti, perché era insomma proprio quello completo, non soltanto il velo. E lui dice: ma i vestiti, cioè il vestito islamico, la veste islamica ha permesso alle donne di fare la rivoluzione, E, altrimenti le donne vestite come si veste lei, per esempio, sono una distrazione. Lui la offende anche perché dice il vestito islamico è per donne per bene, giovani e per bene, non come lei che si porta dietro un codazzo di uomini. Così, insomma, potrei anche leggerlo, però se, fidatevi, sono le parole. E lei dice, ma chi glielo dice a lei che io mi porto dietro un codazzo di uomini, cioè come si permette? E lei dice, no, ma lei vestita così distrae, però se lei non se la sente non è obbligatorio, può anche toglierlo il vestito islamico. E lei dice, finalmente, allora me lo tolgo, è stata celebre questa scena dove se lo toglie, lui è molto infastidito naturalmente, no? Lo fa cadere lei e dice, finalmente mi tolgo questo fazzoletto medievale. Cioè lui ci rimane non tanto bene, dopo se ne va, però lei dice, no, io aspetto qui finché lui non torna, ed è costretto lui a concedere di tornare il giorno dopo, insomma. Quindi anche lì è stata molto coraggiosa, no? Cioè, perché insomma ha mostrato un certo carattere, poi dire certe cose a Khomeini non era facile, poi per lei come donna, insomma, cioè, era abbastanza complesso, insomma. Poi da lì va in Libia perché voleva vedere un'altra faccia dell'Islam, e lì c'è Gheddafi e vuole intervistare Gheddafi. Lì trova una cosa completamente diversa, è sempre un paese islamico, però lì le donne non hanno la veste islamica, non hanno lo chador, solo chi lo vuole. E si informa subito sulla condizione della donna e le dicono, no, ma qua è equiparata, tanto è vero che anche le donne fanno i militari, se vogliono possono fare il servizio militare come gli uomini, è uguale. Allora lei dice, bene, e poi comincia a vedere chi è il magazziniere, chi è la cameriera, e le dicono, no, in Libia c'è questa forma di comunismo islamico che ha proibito i lavori servili. Però lei dice, c'è un cameriere, c'è una... ma quello lo fanno quelli degli altri paesi, gli egiziani, la tunisina, sì. Allora lei non manca di sottolineare questa cosa, quando poi intervista Gheddafi glielo dice, ma allora questa giustizia sociale solo per i libici? E poi fa anche domande molto scomode, gli dice, ma lei si pone come quello che libera la Libia dagli ex colonialisti italiani, però ha degli affari ad esempio con la Fiat. Lui lì è in difficoltà, e lei poi gli dice pure, ma lei sa che è una dittatura la sua, glielo dice proprio anche direttamente in faccia. Ecco, le sue interviste hanno anche degli elementi di riflessione. Io adesso volevo leggere un piccolo passo sulla se siete d'accordo, se non vi annoia, sulla parola rivoluzione, una cosa che, allora, lo cerco, l'avevo segnato. Ok. Sono caduti tutti i fogli. Allora, la rivoluzione è la presa della Bastiglia che l'Occidente, è dalla presa della Bastiglia che l'Occidente vive nella bugia chiamata rivoluzione. Ed è allora che questa parola equivoca ci ricatta come una parola santa, in quanto tale ci viene imposta come sinonimo di libertà, uguaglianza, fraternità, simbolo di riscatto e progresso, speranza per gli oppressi. Ed è allora che le stragi compiute in suo nome vengono assolte, giustificate, accettate, che i suoi figli vengono macellati dopo aver macellato, convinti che essa sia la cura di ogni cancro, la panacea di ogni male, ma rispettosamente la pronunciano, rispettosamente la studiano a scuola, rispettivamente la analizzano, rispettosamente non osiamo contestarla, rifiutarla. aspetti. Se non si fa scoppiare qualche bomba, ti dice, qui non si fa nemmeno la rivoluzione, mi disse anni fa un rivoluzionario italiano che anticipava le brigate rosse. E non serve a nulla che Mussolini chiamasse la sua dittatura rivoluzione, e così Hitler, e così Papadopoulos, così Pinochet, non serve a nulla che la rivoluzione abbia fallito in Francia, in Russia, ovunque si sia ripetuta strillando libertà, uguaglianza, fraternità, giustizia e progresso. Ecco, su... una parola come questa volevo un attimo riflettere, cioè lei era capace di far notare anche queste analisi contro gran parte dell'opinione comune, insomma, perché c'è anche la parola rivoluzione, suscita in gran parte delle persone un sentimento positivo, però lei dice attenzione, cioè dalla rivoluzione francese che noi abbiamo quest'idea che la rivoluzione porti alla giustizia, non è sempre così, cioè anche Mussolini parlava di rivoluzione, però non è che poi ha portato sicuramente non un governo giusto, insomma, quindi anzi ha portato una dittatura, ecco. Ecco, e adesso mi piaceva parlare, oltre della sua professionalità, un po' di com'era lei anche, perché la sua capacità di essere così professionale era anche dovuta al suo carattere, quindi magari guardiamo il secondo video. Cioè facendo un omaggio a Oriana Fallaci, grazie alla tua presenza, quindi io saluto i nostri ospiti, grazie a Barbara Alberti, grazie a Mariano Sabatini, grazie a Federica, voi. Noi ci vediamo tanto ormai, tu sei sempre tanto qua. Ci sto. E io ringrazio Maria Rosaria e ti chiederei la gentilezza di raggiungere il centro dello studio per regalarci così, per diventarla Oriana. Un ricordo di Oriana Fallaci. Allora, quello che interpreterò, ci tengo a dirlo, è da poco pubblicato, solo io posso raccontare la mia storia, autoritratto di una donna scomoda, e sono le sue testuali parole di quello che pensava poco prima di morire. Io saluto il pubblico, ci vediamo alla prossima puntata e vi lascio con Maria Rosaria Omaggio che interpreta Oriana Fallaci. Buonanotte. Ho incominciato molto tardi a capire quello che rappresentavo, che contavo per tante persone. Ancora oggi non l'ho capito molto bene. Io non sono la Giovanna d'Arco, l'Achille, che alcuni addirittura vedono in me. Sono soltanto una persona che è capace di dire quel che pensa, di fare quel che crede debba essere fatto e di vivere come vuole vivere, senza paura. O meglio, tentando di non cedere alla paura. Sono anche una persona molto seria, molto disciplinata e molto dura. Quell'autodisciplina mi ha reso dura insieme alle sofferenze e ai dolori troppo grossi, ma niente di più. E non voglio mi siano attribuite responsabilità che non ho, non voglio essere vista una specie di santa o di guerriera e soprattutto non voglio essere fraintesa, cosa che invece avviene continuamente. Il mio culto della libertà è stato ed è frainteso, visto che con libertà non intendo caos e licenza. Non mi stanco di ripetere che la libertà è un dovere. Prima che un diritto, è un dovere. Il mio anarchismo è stato frainteso, visto che con anarchia intendo qualcosa di sacro, di superiore. Un utopistico stato in cui il cittadino si governa da sé, senza uccidere, senza offendere gli altri, senza rubare. E la mia indipendenza è stata fraintesa, visto che non si è capito come e perché io l'esercito in modo non fazioso, e cioè denunciando il luridume della destra e della sinistra. Ritengo ad essere amata senza essere capita. E non capisco, quell'eccitazione va intorno a me e rifiuto il divismo che a poco si è venuto creando intorno a me, tanto più che sono una persona molto schiva, ritrosa, ossessionata dalla privacy e sostanzialmente asociale, e non credo ai miti, o meno che tutto al mio. Ecco. Sì, infatti volevo partire da quello, no? Lei dice la libertà è un dovere e lei denunciava le malefatte sia della destra che della sinistra, no? Invece viene costantemente, insomma, strumentalizzata un pochino, diciamo. Però, insomma, cioè, partendo da com'era lei, diciamo un po' com'era il suo coraggio. Lei è stata la prima donna a essere mandata al fronte come giornalista, come inviata di guerra, cioè che è una cosa rarissima anche oggi, non so quante donne ci sono in guerra, cioè no, penso che non ce ne siano neanche tante che ci vogliono andare, però non lo so. Cioè, e lei è andata nel 67 in Vietnam a seguire la guerra del Vietnam e torna e scrive Niente così sia, un libro veramente molto bello che vi consiglio, dove denuncia le malefatte sia dei Vietcom che anche degli americani. Cioè, lei non risparmia nessuno, cioè, racconta quello che succede, racconta l'assedio a un ponte dove muoiono tantissime persone, dove non ce n'era neanche bisogno. Cioè, lei mette proprio l'anima in maniera del tutto obiettiva. Dopo essere tornata dal Vietnam ci tornerà altre 12 volte per seguire queste vicende anche proprio da vicino. Tanto le interessava anche vedere come andava a finire, com'era la vita proprio, la voleva raccontare proprio non in maniera superficiale, ma sempre vivendola dall'interno. Ecco, tornata dal Vietnam nel 68 va a seguire le Olimpiadi in Messico, no? Il Messico era un paese che viveva una grande crisi economica e decide di, nel 68 di organizzare queste Olimpiadi in grande stile, con uno spreco di soldi, cioè non spreco, non si può dire, con un investimento di soldi notevole che a gran parte della popolazione sembra uno spreco, ecco. E quindi montano le proteste soprattutto nel mondo giovanile, tenete conto che siamo nel 68, quindi c'è l'eco delle proteste giovanili in tutto il mondo, e quindi anche in Messico queste proteste montano e lei in particolare era molto critica anche nei confronti delle proteste studentesche del 68, diceva che erano dei giovani figli di papà con l'auto lussuosa che pagati dal papà, che di giorno uscivano dal loro appartamento bellissimo per fingere di essere dei poveri e poi tornare nel lusso. Lei era molto critica, per questo è stata anche molto criticata. Però insomma, fatto sta che lì in Messico a un certo punto per caso si trova in mezzo a una sommossa era la ribellione della piazza delle tre culture, si chiama così perché c'è la cultura maya, poi quella spagnola, poi i grattacieli, così. Beh, insomma, e viene raggiunta, è stato un po' da tre pallottole, quindi la credono morta e lei perde naturalmente i sensi, la mettono insieme a un insieme di cadaveri, insomma. E pensando fosse morta, poi a un certo punto un sacerdote si è accorto che era ancora viva, la prendono, la portano in ospedale, viva per miracolo, e a questo punto uno si aspetterebbe che, non so, che si ritiri o che sia un po' più tranquilla, non so, cioè, sono tornati dal Vietnam, poi va in Messico, si prende tre pallottole. Uno pensa, invece no, lei era sempre guerriera e va in Grecia a seguire i disordini, le ribellioni che c'erano lì. E lì conosce Papagoulis, che è il suo grande amore, cioè lei ha avuto anche altre relazioni, però ecco, questo era il capo della ribellione greca contro il dittatore che c'era, Papadopoulos. E quest'uomo era stato preso perché voleva fare un attentato, e imprigionato, torturato per sapere i complici, non aveva risposto, era stato, insomma, ha preferito farsi torturare anche in maniera abbastanza, insomma, che vi risparmio, insomma, abbastanza dura. Poi viene sospesa la condanna a morte, viene incarcerato e fa 5 anni di carcere duro quest'uomo, in una gabbia proprio, perché volevano che si vedesse cosa succede a chi si ribella. Poi alla fine esce, conosce Oriana Fallaci, iniziano questa bella relazione, però non dura tantissimo perché lui, siccome non riescono neanche lui a comprarlo, diciamo, e a un certo punto è vittima di un incidente stradale, insomma molto ambiguo questo incidente, e muore. E lei risente molto, no, di questa storia con questo suo grande amore, e scrive, infatti nel 79 scrive questo suo celebre libro Un uomo. Okay, che racconta proprio la storia di Papagoulis paragonato a un gabbiano che non voleva farsi mangiare dai pesci. C'è anche molto bello da leggere, si legge anche la sua passione per lui, e soprattutto in lui lei vedeva la voglia di riscatto, la libertà per cui lui lottava, per lui, per il suo popolo, la capacità di sacrificarsi che lei ammirava molto. E un po' prima di questo libro pubblica anche la lettera a un bambino mai nato. Questo è un testo che penso che conosciate tutti, è molto famoso. È una lettera che lei scrive a un bambino che, cioè, lei non dice che è lei, insomma, anche se forse si capisce, non so. Però c'è questo bambino di cui lei è incinta, e lo chiama solo bambino, non ha un nome così. Ed è veramente un testo molto profondo, no? Dove si vede la condizione della donna in maniera universale, no? E lei aveva già detto, quando aveva partecipato a un talk show che aveva parlato dell'aborto, che si stupiva che era stata chiamata a parlare, era la prima donna ma la quarta persona che parlava. Allora anche in questo testo dice l'aborto, che si parla di un aborto spontaneo, cioè questo bambino alla fine del testo si capisce che non nasce, come si capisce anche dal titolo, mai nato. Si parla di un aborto spontaneo, e lei descrive proprio come questo sia un dialogo tra la madre e il bambino, e come non debbano intromettersi in questo dialogo nessun altro, insomma, e soprattutto non persone come anche degli uomini, insomma, che non hanno mai vissuto questa esperienza della maternità. E lei dice una cosa talmente privata, e soprattutto dice una cosa che mette nell'animo della donna un grande travaglio, un grande dolore. Cioè non è una cosa superficiale che uno dice mi è successo, no, cioè è una cosa molto travagliata. Questo fu sicuramente un libro biografico, perché lei ebbe già all'inizio della sua carriera un aborto spontaneo, e con un reporter di Londra con cui ebbe una relazione, e questa esperienza la segnò così tanto che tentò il suicidio. Questo non è un evento della sua vita molto conosciuto, però insomma è successo. Il fatto che abbia scritto questa lettera a un bambino mai nato quasi subito dopo che Papagoulis è morto lascia pensare che forse abbia avuto un aborto anche spontaneo, sempre con lui, però non si sa, cioè, mentre del primo si sa, cioè di questo non si sa, però non cambia la cosa, insomma, voglio dire. Cioè, e da qua vediamo com'era la sua attenzione anche per le donne, e come battaglia anche per la dignità della donna. Questo era un tema che a lei era molto caro, quello dell'aborto. Lei non ha mai detto che è pro o contro l'aborto, ma diceva una cosa personale della donna, non è che gli altri possono mettersi a discutere su questo, insomma. È un grande dolore per la mamma che perde un bambino, no? Cioè, certamente. Ecco, su questo vediamo un po' com'era lei anche attenta alla condizione femminile anche quando andava in giro per il mondo. Ecco, uno dei primi libri che scrive, Il sesso inutile, che era la donna, il sesso femminile, dopo un viaggio nel Medio Oriente, nei paesi orientali, che lei dice le donne in questi paesi sono discriminate, insomma, era già una cosa dall'inizio, un tema che era molto forte. Lo vediamo anche molto presente nell'intervista a Khomeini, come vi ho detto prima, no? Perché lei era molto interessata a questa condizione. Lo vediamo anche nel romanzo che scrive dopo essere stata a Beirut, scrive Inshallah, dove si vede proprio queste avventure delle donne che non riescono ad accedere a tutti gli ambiti della società. Questo più per il mondo musulmano, dove lei ha avuto anche delle critiche che penso che conoscono tutti, insomma. Ma era molto critica anche nei confronti della società nostra occidentale, per esempio quando le dicevano come si sente come prima donna inviata al fronte quando è stata in Vietnam, lei diceva: non vedo perché devo sentirmi diversa da un uomo, qual è la differenza? Insomma, quindi lei si faceva valere anche in tutti gli ambiti ed era sempre molto attenta a questo aspetto delle donne, insomma. Okay. Per capire un po' il suo carattere, farei vedere il terzo video. Oriana Fallaci è una donna che possiamo definire l'unione degli opposti. Una grande intelligenza e poi in alcuni momenti fragile come una bambina. Ho molte cose in comune con Oriana. La domanda la faccio io. C'è altro che giusto scancio strazzo. La cosa che mi divide molto da lei è l'idea della guerra come qualcosa di necessario. Questo non riesco ad accettarlo. Miss Andrzej Wajda è un grande maestro. Action. Sul set c'è una grande atmosfera sorridente, ma nello stesso tempo anche rigorosa. Oriana difficilmente era contenta. Wajda e il copione hanno rispettato l'intervista originale. È qualcosa che sicuramente le sarebbe piaciuto. E anche a me piace molto. Dziękuję. Ecco. Riguardo questo suo rigore, volevo raccontare che lei, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, anche dopo aver scoperto che aveva il cancro, si rifugiò negli Stati Uniti, a New York, per tradurre lei stessa i suoi libri, perché non si fidava dei traduttori. Cioè lei, soprattutto il libro che ha scritto, no? La rabbia e l'orgoglio, questo testo che ha scritto all'indomani dell'attentato alle Torri Gemelle, no? Lei era lì, quindi l'ha vissuto con particolare enfasi, proprio abitava lì perché si era ritirata negli Stati Uniti dopo aver scoperto che aveva il cancro, e questo che le chiamava l'alieno che era dentro di me, diceva, e era convinta che lì avesse più possibilità, insomma. E questo attentato le suscita una grande rabbia, e quando decidono di tradurre il testo, lei dice: non mi fido dei traduttori, perché aveva iniziato a leggere cosa stavano traducendo, e dice: no, lo traduco io in inglese e in francese. Poi, dopo le polemiche che ci sono state per questo testo, vuole scrivere un post-scriptum che diventa però un libro, La forza della ragione, e anche qui lei lo vuole finire prima di morire, insomma, perché sa che aveva il cancro, anche se lei diceva sempre: ma si può vivere tanto, si può anche guarire, insomma, non è inguaribile così. Però ecco, lei investe tanto suo tempo a scrivere questo libro, a tradurlo così, che quando lo ha finito va dal medico per dire: ok, adesso mi posso operare. Il medico le dice: troppo tardi. Questo, e lei dice: sì, è stata una cosa incosciente, però io ritornerei a fare la stessa cosa, perché ci teneva così tanto. E poi era molto rigorosa, anche l'ultimo libro che ha scritto, Oriana Fallaci intervista Oriana Fallaci, cioè lei si intervista da sola perché diceva che gli altri malinterpretavano le sue risposte, ma anche nel monologo di prima, no, abbiamo visto: solo io posso raccontare la mia storia. Questo punto di vista era un po', insomma un po' severa con tutti gli altri, solo lei poteva. Ecco, questo radicalismo che aveva l'ha portata a trascurare anche molto la sua salute, e per questo purtroppo è venuta meno a causa del cancro. Ecco, questi ultimi testi, volevo fare quest'ultima parte sugli ultimi testi dedicati, alla sua posizione contro l'Islam, sono stati molto polemizzati, no? Perché lei diceva che, soprattutto nella forza della ragione, che l'Europa aveva rinunciato ai suoi valori. e quasi ci si vergogna delle proprie tradizioni. Ecco, questa è stata la parte anche più strumentalizzata degli scritti di Oriana Fallaci. Lei diceva appunto questo, che molti non hanno il coraggio, no, delle proprie identità, no? Cioè, che non significa dire che la nostra cultura è migliore, ma almeno riconoscere quello che siamo. E per questo l'Europa, dice, se continua così è destinata a soccombere, a chiamarsi Eurasia, perché ormai fa parte ormai dell'Asia senza un'identità propria, almeno che non riconosce, ecco. Ecco, se avete domande, perché non voglio assillarvi con una conferenza troppo lunga che poi magari uno si annoia. Cioè, ecco, prego. Vuole il microfono? Se posso, grazie. Al di là del valore, del prestigio di una simile scrittrice, che sono fuori dubbio, Mi premerebbe sapere come mai ha avuto un atteggiamento non proprio facile verso il movimento studentesco, il cosiddetto 68, no? Tenendo presente che i contestatori, non è vero che poi erano tutti figli di papà, molti erano operai. Se citiamo quelli nella facoltà di sociologia di Trento, che la occupano a partire dal 67, certo non erano sicuramente figli di papà, no? Parecchi erano addirittura figli di operai. D'altronde la contestazione tutto sommato si rivolgeva contro certi modi di essere, di fare del capitalismo, dell'imperialismo americano, della guerra del Vietnam, e in Italia le università, ma anche le scuole superiori, contro i cosiddetti baroni, il modo di insegnare, diciamo così, piuttosto antico, se non dire altro, no? Quindi mi meraviglia questo atteggiamento, diciamo così, non facile, non proprio propenso verso il movimento, no? Che tutto sommato ha portato grosse e importanti trasformazioni nel mondo civile, culturale, non solo italiano. Grazie. Allora, grazie della domanda. Sicuramente è dovuto al fatto che lei, già da molto giovane, da adolescente, ha partecipato alla resistenza, anche un po' trascinata dal padre, perché era molto giovane. Allora lei aveva questo valore della libertà con il sacrificio, e questo lei non lo vedeva per la sua esperienza, no? Magari era anche un'esperienza limitata per alcuni punti di vista, però nella sua esperienza non vedeva la stessa voglia di sacrificarsi anche la vita, no? Per gli ideali di libertà. Vedeva dei giovani, quelli che vedeva lei, però non è detto che siano stati tutti così, quelli che vedeva lei erano dei giovani di famiglia ricca, insomma, però non è detto che siano stati tutti così, cioè. Ecco. Avete altre domande? Ma volevo fare una domanda io per quanto riguarda il fatto che è un personaggio purtroppo strumentalizzato. A volte gli viene messa addosso una veste di un certo tipo, a volte di un'altra, cioè gli si appioppano delle ideologie forse che non corrispondono. Lei per prima ha detto: io sono libera, voglio essere me stessa e quindi non autorizzo nessuno. Come mai è successo? Ti sei data una... Sì, è successo perché negli ultimi scritti lei è molto critica nei confronti della sinistra, e lei dice più volte, come immagino questa domanda, me l'ero anche segnata, però cioè, magari mi credete, cioè più volte dice: la sinistra di oggi ha sostituito la bandiera rossa con la bandiera arcobaleno, cioè difendendo diritti che non sono quelli dei lavoratori, insomma. Quindi lei era molto critica nei confronti della sinistra. Poi magari si può dire che lo era perché era nata in una famiglia antifascista, così magari si aspettava di più, non lo so, però è un dato di fatto. Poi anche la posizione contro l'Islam e nella difesa dell'identità nazionale, lei era molto attaccata alla patria, all'Italia, ma anche agli Stati Uniti. Però Lei diceva anche che amare l'Italia, amare gli Stati Uniti non significa perdonare tutti. Come ho già detto prima, nonostante lei fosse molto legata agli Stati Uniti, non risparmia critiche nel Vietnam, nel suo romanzo Niente così sia. E anche con l'Italia, cioè lei si leggono anche critiche anche nei confronti dei partiti di destra, adesso per essere chiari. Però le maggiori critiche lei le rivolge negli ultimi anni, devo dire, alla sinistra. Questo è un dato di fatto. Eppure è stata una persona molto libera che è riuscita anche a superare degli schemi tradizionalistici della donna dell'Italia degli anni 60-70, nel momento in cui si doveva decidere per l'aborto, mettere in piedi una legge molto discussa e molto anche combattuta. E lei per prima ha incarnato, suo malgrado, forse anche con dispiacere, un emblema, ecco, di quella che poteva essere anche la condizione di una donna. Grazie. Sì, sì, questo perché lei viveva questa condizione di libertà e che non va inquadrata in una parte politica. Ci sono tante donne libere in tutti i partiti, insomma. Cioè, ecco, quindi viene però, cioè è vero che lei negli ultimi anni soprattutto le critiche le faceva alla sinistra, devo dire, non risparmiava nessuno, però era proprio, se si legge anche Oriana Fallaci, intervista a Oriana Fallaci, le critiche sono soprattutto in quella direzione, insomma. Era profetica, come abbiamo detto prima, no? Cioè è stata profetica, comunque era una persona obiettiva, diciamo, cioè sì. Sì, però lei semplicemente così come. Sì, probabilmente per questo motivo, soprattutto per gli attacchi all'Islam, sì. Questi ci sono stati, no? Però lei dice non mi voglio far inquadrare da una parte né dall'altra, era una persona che voleva essere libera. Sì, l'ha rivendicata, insomma, la sì, propria libertà. Ma molto probabilmente perché una volta inquadrata poi non si sarebbe più sentita libera di lasciare quella parte politica, no? Cioè voleva essere proprio lei, era cioè non si poteva comprare, ecco, non si lasciava comprare da nessuno. Ecco, questo era il suo grande pregio. Ecco. Bene, se avete altre domande, altrimenti ci sono libri a disposizione sia in biblioteca provinciale qua sotto che nelle biblioteche del sistema locale, ma abbiamo ancora un intervento con Frank Heller. Ti porto. Vai Franca. Tu dicevi strumentalizzata. Beh, allora a me parlo per diretta conoscenza di chi è stato un fotografo, era l'amico di mia cognata, che l'ha seguita per esempio a fare l'intervista allo Scià di Persia, cioè, quindi una persona che l'aveva conosciuta. Lei dice, lui dice, strumentalizzata un pochino da Monsignor Fisichella. Allora, lei ha avuto una deriva più che di destra. Lei si è sempre dichiarata ateo-cristiana, però poi aveva questa adorazione sconfinata per Benedetto XVI, tant'è che gli ha lasciato tutto il suo patrimonio, no? E, ecco, io secondo me non, no, si è un pochino strumentalizzata da sola, non hanno strumentalizzata gli altri, secondo me, anche perché ha preso molti svarioni, li ha presi, dai. Quando ha detto che Saddam Hussein era collegato con Al-Qaeda, lo sappiamo, voglio dire, è stata anche molto abile a costruirsi un'immagine, secondo me. E quindi non sono gli altri. Poi, 20 anni prima, scusate il termine, ma Di Berlusconi dice quel fottutissimo idiota. E nella trilogia lo difende, e non solo. Ma nella terza qua parla contro la magistratura, fa tutta un'epopea contro la magistratura che lo perseguita. No, ecco, io ho ancora dei dubbi su di lei. Scusatemi. No, ma giustamente siamo qui proprio per confrontarci nelle varie opinioni, non c'è una verità, insomma, raccontiamo, no? Raccontiamo le luci e le ombre delle persone, insomma, in questo caso di Oriana Fallaci. No, anzi, è bello avere un dibattito. No? Che, sì, questo è vero, cioè lei su Saddam Hussein aveva sbagliato, questo sì. Poi è vero che su Berlusconi prima aveva detto male, poi invece bene, la stessa cosa per la Lega in particolare, se vogliamo proprio vedere. Però lei negli ultimi scritti, forse per quello che l'hanno inquadrata un po' nella destra, perché lei dice più volte la sinistra che non combatte più le battaglie per cui era nata, questo lo ripete spesso, e poi molto spesso dice quella destra cattiva, un po' sfacciata così, non c'è più in Italia, questo lo dice spesso, quindi è vero che lei ha combattuto contro il fascismo, è stata partigiana, no? Faceva la staffetta, quindi cioè, ha sempre avuto presente il valore della libertà, poi negli ultimi anni in particolare, forse perché era delusa dalla sinistra, può darsi che sia quello il motivo, però lo ripeteva veramente spesso, negli ultimi libri questa critica è molto presente, anche nei libri contestati, insomma La rabbia e l'orgoglio, La forza della ragione, lei dice tutti quelli che hanno rinunciato alla propria identità, invece il valore della propria identità, questo naturalmente la comuna a una certa parte politica, insomma. Però cioè, ci sta, cioè, ognuno ha le sue idee politiche, no? Cioè, meno male che c'è ancora libertà, come voleva lei, la libertà di essere se stessa. Ecco. Sì, c'è ancora qualche domanda, qualche considerazione che volete consegnare al nostro pubblico? Se no direi di fare un applauso a Rosanna Oliveri. Che ringrazio, ricordo che il film che avete visto, Lech Walesa, L'uomo della speranza, è possibile prenderlo in prestito qui presso il centro audiovisivi con cui collaboriamo e che questa serata è stata possibile anche grazie all'aiuto del centro audiovisivi. La biblioteca appunto ha dei libri da mettere in prestito, altrimenti potete rivolgervi anche ad altre biblioteche del centro del sistema cittadino. E vi diamo appuntamento il 6 di luglio, sempre in questa sala, per conoscere Celestina Vanzini, che ha vinto ieri il premio Catalogo Aperto. E il 10 luglio, invece, sempre in questa sala, con Luca Bernardi, per il suo secondo romanzo, Città Tropicale. Buona serata e buon proseguimento. Grazie.